America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Follia di borsa, abbiamo visto in settimana un record al di sopra di quota 21.000, è stato superato questo livello 21.000, soprattutto ieri è stato collocato in borsa un nuovo social, chiamiamolo un social, una app che si chiama Snapchat. Pensate, il valore di collocamento è stato di 33 miliardi di dollari, secondo alcuni è una follia, ma di questo parleremo dopo. Prima vorrei affrontare rapidamente una questione politica. Information reported last night makes it clear that Attorney General Sessions cannot possibly lead an investigation into Russian interference in our elections for the good of the country. Attorney General Sessions should resign. Ecco, vi ho fatto ascoltare Chuck Schumer. Chuck Schumer è il capo della minoranza democratica al Senato, un senatore di New York molto influente. Dice: per il bene del paese, l'Attorney General, cioè il segretario alla giustizia, dovrebbe dimettersi. Abbiamo ora bisogno di indagini indipendenti ed è il caso che Sessions, Jeff Sessions, appunto, il segretario alla giustizia, non venga coinvolto in tali indagini. Chuck Schumer e Jeff Sessions fino a poco fa lavoravano insieme al Senato. Sessions è un senatore repubblicano, Schumer è un senatore democratico. Sessions era stato scelto da Trump come ministro della giustizia, finalmente è stato confermato. E qual è la bufera? Beh, la bufera su Sessions è che avrebbe avuto dei colloqui con l'ambasciatore russo a Washington, con l'ambasciatore Sergei Kislyak, nel 2016, prima di essere confermato segretario della giustizia, ma già nominato. Qual è il problema? Che durante le audizioni al Senato, credo gli sia stato anche chiesto, e Sessions ha glissato, non ha confermato. Ecco, a questo punto invece sembra che questi incontri ci siano stati, e dunque qua nella politica tutto vale, e quindi potrebbe essere la prima crisi all'interno del gruppo di ministri di Donald Trump. Sessions dice: ma io ho fatto sempre le cose nel modo giusto, se dovesse succedere qualche cosa legato all'ambasciatore russo, beh, a quel punto mi astengo, non c'è problema. Vedremo come andrà a finire. Intanto torniamo a Wall Street. Why the big snap pop that we got today? Three reasons. Markets at new high, that's a big factor, but it's not sufficient. You need more than that. Ecco, torniamo a Snapchat. Evan Spiegel e Bobby Murphy erano ieri a Wall Street per dare l'avvio delle prime contrattazioni. Ecco, qui secondo me bisogna mettere il tutto in un contesto un pochettino più ampio. Vi ho detto che c'è stato un collocamento strepitoso di Snapchat, però non c'è solo un collocamento strepitoso di Snapchat, poi ne parleremo in modo più approfondito, ma c'è un indice di borsa che sta correndo senza sosta. Dunque viene fatto di chiedersi: ma ubriacatura, follia, record annunciati o soltanto un Trump rally, come vi dicevo qualche giorno fa? Perché devo dire, è straordinario vedere l'assoluta certezza con cui il mercato balza in avanti. A parte i record consecutivi, ci sono stati 13 record consecutivi fino a lunedì scorso, poi c'è stata una pausa, ma è un risultato che non si vedeva dal 1987. Ma a parte quel che conta è il passaggio delle soglie psicologiche. E dunque vediamo un attimo l'accelerazione, perché lo ricorderete, dopo che si capì che Donald Trump era stato eletto presidente degli Stati Uniti, le prime reazioni in Asia furono reazioni in perdite. Il Dow Jones perdeva il 3-4, addirittura il 5%. Dopodiché la borsa apre a New York, recupero più o meno stabile, e poi da lì in avanti comincia un percorso al rialzo che non si è più fermato. Pensate, in 14 giorni sfonda quota 19.000. Quello poteva anche starci, perché si ragionava da tempo sullo sfondamento di quota 18.000, forse si arrivava a 19. Quindi succede questo il 22 di novembre. 25 gennaio, altri 1.000 punti e il Dow Jones supera quota 20.000. Adesso, in poco più di un mese, 1 marzo, altri 1.000 punti e superiamo quota 21.000. Ecco, io credo che qui c'è da farsi qualche domanda di fondo, perché da una parte siamo chiaramente nel bel mezzo di un rally, di una corsa agli acquisti di natura secolare, cioè quando ci sono 13 record consecutivi che non si vedevano dal 1987, c'è qualche cosa di serio che sta capitando. E mercoledì il balzo è stato dell'1,46%. In quel caso l'indice festeggiava la scoperta di un Trump che poteva essere uomo di Stato, che dava rassicurazioni, che dava garanzie, e quindi gli operatori si sono, come dire, entusiasmati di questa novità e hanno ignorato il fatto che l'inflazione si stava avvicinando al 2%, hanno ignorato il timore di un possibile aumento dei tassi di interesse già a marzo, e a questo punto diventa possibile. Ecco, sulla base di questo contesto, l'apoteosi. More than 60% of 13 to 34-year-old smartphone users are on Snapchat, and the users, they send more than a billion snaps a day. They watch more than 10 billion videos online. And now ecco, sì, è giusto dire apoteosi, perché siamo in uno sviluppo d'altri tempi. Era un bel pezzo che non vedevamo i tecnologici andare sul mercato con questi multipli. E Snapchat è un'app, è un social che confeziona dei messaggi molto speciali, con video, con foto, anche con dei messaggini, che vengono confezionati come una piccola storia, e l'idolo dei giovani prevale fra coloro, diciamo, fra i 18 e i 34 anni, ma soprattutto prevale fra i teenagers. Pensate, su Snapchat sono stati inviati 10 miliardi di video, ed è stato collocato in borsa ieri con un'atmosfera, diciamo, che a quel punto era ottimista per via del rally di borsa, per via dei rialzi degli indici, però il valore atteso era di 24 miliardi di dollari. Dopodiché si è passati al mercato e la domanda è esplosa. L'aumento del titolo è arrivato a quota 33,5, con un aumento del 40%. Mi fermo. Dovremmo essere nervosi? Forse sì, forse no. Pensate soltanto a una cosa, si diceva anche di Google e di Facebook quando ci furono i rialzi incredibili al loro collocamento che chi comprava era un folle. Ebbene, sono arrivati rispettivamente a 589 miliardi di dollari di capitalizzazione e a 400 miliardi di dollari per Facebook. E dunque, insomma, l'upside per Snapchat non è cosa da poco. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, la borsa ci fa sognare. Chi ha comprato Snapchat ieri col premio del 40% sta sognando che possa ripetere le performance di un Facebook o di Google, e dunque non posso che pensare a una canzone che invoca il sogno, degli Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This. Sweet dreams are made. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!